dice? Si dice che fa un po' di freddo. Freddo c'è. Non c'è caldo. Ma io già mi sono attrezzato. Mi ho messo una bella coperta di quelle morbidose. È vero, tu parli dal lettone. Io sono seduto qua. No, io sono bene a letto, mi sdraio, tranquillo, mi stavo riposando, dopo un pranzo, sto appena iniziato a riposare, tu mi sono accampato quella di fronte, ma la cazzata. Mamma mia, è proprio vero, come facevo prima, mi stacco tutto adesso, il telefono e tutto quanto, quando vado a riposare, così non manco, non mi rompo i capelli di sciuma. E mi ha troncato il sonno, sono riuscito più a riposare dopo pranzo. Infatti sei solo. Io metto il telefono silenzioso. Purtroppo la luce non la. Il contattore non lo abbasso, però sarebbe da farlo perché. All'Idrea c'è una drogoriera SDA, c'era un pacco per mia figlia e non sapevo niente. E quindi vai, via. E vabbè, così este. Però io metto sempre il telefono silenzioso, almeno fino alle 4 e mezza alle 5 poi. Se squilla, chiamo io, se devo chiamare, c'è una cosa importante, se no non c'è mai nessuno. Ma infatti la maggior parte delle volte sono questi rompi male che ti chiedono se vuoi cambiare profilo tariffario, se vuoi cambiare gestore, eccetera, eccetera. Una rotta le scatole adesso. E io come vedo il numero manco rispondo. A me mi sceglia, probabile spam. No, io no, non rispondo neanche, guarda. Se vedi 02 Milano, sì, più o meno riconosco anche i numeri, però il mio ti segna probabile spam, che significa che sono questi rompiballe, e allora lo chiudo direttamente, capito? Mi fa oggi, scusi, lei ha già una linea telefonica, sì, è dall'attimo in che chiama. Lei che linea telefonica, questi sono problemi miei, non sono problemi suoi. Ma carità, ne voglio poco sapere cose. Ma dimmi tu, perché poi ti fanno domandine, ti fanno. Ti mettono in trappola, capito? Ti fanno fare il contratto senza volerlo fare. Io lo so, sì che è così, purtroppo è così. E rimani buttito. No, poi ho messo la fibra ottica, adesso va la grande, velocissima. Il primo periodo l'ho operato, ma sai cos'era? I primi tecnici che sono venuti hanno sbagliato collegando un filo, hanno invertito un filo. Quando sono arrivati quelli da Cagliari, che si hanno controllato la cabina, ha telefonato e ha detto, se ti vuoi fare una risata, gli ha detto al collega al telefono, perché ci aveva una voce, era a casa il collega, e l'altro era nella cabina. E cosa c'è? I colleghi nostri hanno messo il filo invertito, hanno messo praticamente il filo di quelli che hanno già quelli che hanno già avuto Vodafone, non devono collegarlo nell'altra parte, lo devono collegare proprio dove c'è l'attacco Vodafone, invece l'hanno collegato all'altra parte. Dice, questo difetto, dice, adesso glielo segnaliamo, l'ho fatto anche il caffè, sono stato 4 giorni che alla fine mi hanno dato 50 giga da usare col telefonino, perché gli ho fatto le voci, gli ho detto che io non potevo pagare il servizio che non mi stavano dando, e che io a me mi serviva il telefono, mi dovevo telefonare con la mia bittina, con questo e con l'altro, cazzo, non potevo farlo, e noi ogni notte ci facevamo videochiamate, quindi almeno quello. Vabbè, se te l'hanno dato già va bene, vai. Non è un problema, l'importante è che te l'abbiano dato. KK. Sì, ma perché ho fatto casino, ma se non ti l'avevi dato. Io non posso stare senza il telefono, non ho capito. Dice, no, adesso provvediamo, lei che cosa c'ha come gestore telefonico del cellulare? Ho detto, una buona, ma non la va benissimo, guarda, mi sto dando 50 giga. Già va bene, già va bene. KK. Aspetta già 2 minuti che voglio vedere cosa dobbiamo preparare a cena, se no poi all'ultimo aspetta un attimo che mi organizzo e attorno subito. Se fa ancora male il dito. Cosa? Se fa ancora male il dito. Il dito? Il piede, se c'ha il ferro. Adesso il 16 deve andare normalmente all'ospedale per toglierle il ferro. Il ferro interno li metto. Io pensavo che facessero tutto aggiustando l'osso e basta. Vabbè, per aggiustarlo forse ci vuole farlo, sì. Ho capito, però pensavo che fosse solo un'operazione e quindi lo devo ritogliere. Vabbè, il 16 deve andare normalmente. Non era niente oggi, è molto fastidioso e è un casino, non si può muovere, sempre col piede nello sgabello, il ghiaccio sopra, tre medicine ogni ora, mamma mia, lascia aperto. Gli antibiotici deve prendere per non prendere l'infezione, certo. Ma è interno questo ferro o esterno di nome? Esterno, eh. Va bene, dai, piano piano. C'è stato un signore vicino a casa che ce l'ha fatto lo stesso. E adesso ho detto che sta lì in vetta, non riusciva manco a mettersi le scarpe lì. La stessa cosa a mia moglie. A mia moglie c'è anche l'altro, però. Adesso vediamo, febbraio, marzo, farà anche l'altro. Dammi 5 minuti e sto arrivando subito. Via. Roma. Buono. Segnale con lo scala e la radio buona. Ma vesi a casa tua. Ma non ci parlo male gli amplificati, perché se no non lo puoi sfruttare con tutte le cose che ha. Il top gown non lo puoi mettere. Devi abbassare il mic gain. Dani. Ma non sai cosa mi stavo guardando, fra? Le pistole ad aria compressa. Poco fa. E ce n'è una che parla in Spagna, che bellina. Bella, senza bomboletta. Ci mettono i pallini, c'è il caricatore, ci mettono i pallini con i rotondi, poi mettono sia rotondi che i funghetti. Però se metti i funghetti devi mettere a un lavoro, se li metti i rotondi c'è il caricatore, carica il caricatore e puoi sparare. Una volta che carichi puoi sparare tante bombe. Gianni? No, avanti chi mi chiama? Ciao Gianni, no, volevo sapere se stavo uscendo. Che ho ripristinato questo carico, però mi manca uno stilone. Dimmi come sta uscendo. Sta uscendo bene, però non mi sembra una modulazione del tocco, ma il microfono normale. Il microfono normale, allora, visto che poi non è nemmeno il tuo, è un microfono così che ho trovato adattato. E ho messo i fili così, perché non ho uno stilotto. Ne ho 1000 di questi stilotti, proprio quello che mi serve mi manca. Spinotto è? Uno spinotto a 4 punte, maschio. Non capisco, vabbè, quindi lo si usa lì. Va bene, ma la radio è buona, chiara, eh? Sì, la radio buona, però ti ho detto che non mi sembrava con il toccai, perché con il toccai tu lo sei benissimo che precompressa esce bella potente. Questa è una radio normale, però limpida, liscia, dai. Ok, beh, certo. No, non è il suo questo microfono. Non so nemmeno dove ce l'ho piccato il suo. Ho trovato questo e ho adattato questo. Con i fili infilati dentro lo stilotto femmina. Dunque ci vorrebbe lo stilotto maschio per poterlo collegare, no? Lo sai, il toccaio è a 5 punte, dunque ho dovuto fare una prolunga. Ho dovuto fare e nel microfono c'è infilato il fili così dentro allo stilotto quello a 4 punte. Ma li prenderanno ancora quelli stilotti? Ma purtroppo è così, questo è così già, cosa ci posso fare? E queste a 5 punte, però ho fatto la prolunga per poterla adattare poi col microfono a 4 punte. Ma mi manca il maschio, a 4 punte mi manca il maschio. Campagato, vabbè, comunque già sta uscendo, cosa c'è a me? Una questione di contatti era, evidentemente. Poi l'ho tutto duplicato anche. Per cui questo l'avevo abbandonato già da anni, ma da anni veramente, non lo stavo più utilizzando. E poi ho fatto bene, intanto non so cosa fare, adesso mi provo. Prima mi ho aggiustato un alimentatore, perché c'era un filo messo male, anche quello, un alimentatore vecchio di tanti anni che non stavo più usando, un alimentatore a 3 ampere, si può immaginare. E dal momento che ho iniziato, ho detto, beh, adesso faccio anche questo, vediamo un po' cosa mi viene fuori. ho visto che va bene. Calma. Guarda, si è spostato, invece la moglie l'ha chiamato. E vabbè, anche questo qua è risumato. Vediamo cosa farne. Io me ne sono lasciato quattro più importanti e basta. Gli altri li ho tutti venduti. Adesso ho venduto anche la lampada 8, quello modificato, ma ho trovato la vetra e l'ho venduto. E così almeno ho tutti gli apparati che mi interessano e basta. Boh, basta. Ho venduto anche bene a un camionista di coso, di lui. Ho capito. D'altronde, cosa te ne fai se questi queste radio così che non ho? Tanto è sempre quella, la frequenza è sempre quella. Forse è stato magari a variare frequenza, invece niente, non serve a niente a prendere tanti per avere sempre la stessa modulazione e le stesse frequenze, per cui va bene così. Io adesso qualche quello mi ho fatto sparire un po', adesso ancora già me ne sono rimasti, però vediamo un po' cosa combino più da. E io mi sono veduto il cosole, l'ala 48 plus, l'ala 48 normale modificato, e poi ho dato anche quello portato. Ne ho portati adesso e basta, da di due cosa me ne faccio, vuole otto qua roba, cosa me ne può. Ok, io ho venduto l'altro giorno, la settimana scorsa ho venduto quello valvolare che avevo, il 25B, quello è finito a Cagliari, è finito. E dunque poi avevo dato una paglietta, avevo dato anche un Aram Midland. E insomma tutto qua, un altro cosa era? Airbag, sembra, un altro airbag, sì, quattro me ne sono disfatto, cosa me ne facevo, non mi è servito, capito già. Quello valvolare era la stazione base, no, però quello era, non lo so, antichissimo, è una cosa di 40 anni fa. Eia, non mi piace come estetica, non esce bene quello lì. Come estetica non è un granché, però esce bene come modulazione, sì. Mi piace anche la KP23, il Tokai, quelli lì mi piace. Lo so, e questo è il Tokai 5024, quello ce l'hai avuto anche tu, ancora ce l'hai, il 5024 Tokai? No, ne ho avuto tre di Tokai 5024. No, l'ho dato, uno l'ho dato a parte, l'ho venduto, e quello che avevo nuovo, l'ho dato a parte, poi me l'avevano regalato, un altro perché ho fatto un regalo a un amico, e lui per contraccambiare mi aveva regalato Tokai, ma non dovevo farlo perché il regalo glielo ho voluto fare, non per essere contraccambiato, ma l'ha avuto lo stesso, che ha avuto lo stesso che ce l'ha bici, perché sapeva che mi piaceva. E niente, quello lì dice che era un po' fuori frequenza, no? Nel senso che modulava tranquillo, però mi sentivano anche 10 metri, cose del genere, allora me ne sono sbarazzato, là. Cosa mettevo a combattere per queste cose? Lui, quando ci sono problemi così è meglio sbarazzartene. Sì, in effetti è così già. Adesso a questo ci metterò il microfono preamplificato, ci vediamo un po', però se non ho lo stiotto non posso farci niente, perché io ripeto, faccio sempre la prolunga per non toccare mai lo stiotto originale, capito? Dunque, quando posso andare, posso uscire, compro lo stiotto e ci metto un microfono preamplificato. Ha una ricezione straordinaria questa, ha una modulazione bellissima, sento. Andiamo qua, andiamo, che è te? Il nome è Remigio, il casinista è arrivato. Non è un casino di Reggia, il Chimi, ma la sera a tutti. Cosa c'è? Casino. Dove? Da te. Perché? Cos'è quel rumore che c'è? C'è c'è portante. E non penso l'alimentatore. Che ma Patrice una comida mia si di quella che va scherzo ma le ho non lineare tu è sempre senza lineare questo affarino ah chi c'è? Claudio anche, Claudio! Deve fare la cena, ha detto, quindi deve sapere cosa fare perché è solo e la moglie non si può alzare, quindi deve fare la cena. Ah, beh, certo. Ehi, avanti Giulio, ciao, riprendi. Ehi, ciao Lu. Ehi, io ho riesumato il toccai stamattina, dopo che sei andato via tu, mi sono messo a fare un po' di elezioni, sai. Prima ho aggiustato l'alimentatore e adesso ho rimesso in testo questo Tokai 50-24 degli anni 70 e vedo che funziona, era morto, adesso già funziona. Meglio così, dai. Mi ricordo quel Tokai, una volta non so se avete attaccato il turner, mi sa, se no ho un altro microfono che pompava, ho quel microfono che avevo autocostruito in legno, ma se non so, vabbè. E mi ricordo che spingeva che in una maniera allucinante. Infatti, adesso sto usando un microfono normale, che non è nemmeno il suo, per cui già ho adattato questo, ho visto che ci stavo lavorando. Adesso siccome ne manca lo stilotto, ho preparato uno spessore e poi ci metterò un microfono preamplificato e vediamo un po' se funziona come una volta. Sì, questo lo utilizzavo col Tandem più 3, infatti, lo utilizzavo e andavo fortissimo, era una meraviglia. Avanti Franco, vita mia di qua, che bello, dove sei Franco? Giù, le parti basse, forte il chiasso, e tutto quello che è la radio. Ci dà la lampica, ce la fai. Va bene Fra, anche io ho una antenna piccola, una boomerang lì nel terrazzo. Dai, riprendete, torno subito, riprendi già. Kappa. E che antenna stai usando? Quella che devi dare a me? Ciao Franco, buonasera. Tutto bene, sì. Ok. Non so quanto possa avere i watt questo, avrà siano 3 watt, 3 watt e mezzo, non di più. Vecchissimo 50-24 degli anni 70. Ce l'ho 45 anni, 49 anni da quasi, 49 anni a febbraio, che ti puoi immaginare, vecchissimo, era buttato nel dimenticatoio, stamattina l'ho messo a mano di nuovo e l'ho ripristinato. Quello esce con 5 watt? Non lo so già, la verità, non lo so, perché ripeto, ma già metterò il rosmetro così per curiosità e vedo un po' quello, quanti da watt là. Ma non mi interessa più di tanto, è interessante che mi senta. Poi giù quello c'è con 5 watt toccare. Sì, è probabile che siano 5 watt pieni, non lo so, già. Evidentemente, poi adesso non ho avuto modo nemmeno di controllare niente. Pensa che ce l'ho ancora aperto. Infatti l'ho lasciato aperto, faccio sia che non funziona, qualcuno entrerà, mi darà qualche controllo. Poi eventualmente lo chiudo. Perché non rifai l'attacco con la miera direttamente? Così almeno stai a martellarti un capo e ti caghi su spinotto. Non so se ne vedono ancora quegli spinotti. Non voglio farci il malaugurio, ma quegli spinotti lì non li usano più. Lo so già, lo so, ma quello io ce l'avevo. Quello adatto per il baracchino ce l'avevo. Però siccome ho fatto la più lunga, e il microfono che sto usando è a 4 punte. Capite? Cioè a 4 contatti, mentre invece l'originale del Tokai è a 5, no? E dunque l'ho dovuto adattare qua. Adesso che cosa mi occorre? Mi occorre uno spinotto maschio a 4 punte per poterlo attaccare come prolunga al microfono senza toccare lo spinotto originale del microfono, capito? Ah, io pensavo che ti occorresse con la 5 punte quello che si attacca direttamente all'apparato. Quelli sono vecchi più del brodo, già. Anche il brodo è più giovane di quello spinotto. Quelli lì mi ricordo che l'unica rottura di scatola che c'avevano quando ero in macchina tirava il microfono, si staccava, mentre stavo parlando si staccava il cavo. Lo so, ma purtroppo questo è così. Anzi, diciamo che in questo baracchino, io mi ricordo, adesso che mi è venuto in mente, siccome questo aveva solamente 22 canali più un canale alfa, no? Allora ci ho fatto una piccola modifica e ci ho fatto anche il canale 23 tramite un interruttore piccolissimo. Ci ho messo un interruttore piccolissimo e ci ho fatto nascere anche il canale 23. Figurati, tutti truccati. eccomi, ciao giù. Ciao qua. E ogni tanto fare esperimenti già, già va bene, tanto cosa là. Tanto roba vecchia già. Se, come va, va. Pazienza, dai. Comunque, è riuscita, la modifica è riuscita, per cui non c'è problema. E allora qua, sto usando il 50-24 del Tokai, di 49 anni fa. Questo è uno dei primissimi baracchini che ho avuto. L'ho avuto anch'io, 5024 e 5008. KK, no, stavo guardando quel sito appunto dei vintage, cioè tu immaginati che questo, cazzo, degli anni 60 questo Lafayette Comstat 23, perché è un Mark 6, è un Mark 6, questo è degli anni 60. Lo so, caspita, ce l'ho avuto io senza esagerare più di 30 anni, sicuramente più di 30 anni. Poi si era bruciato il trasformatore e allora cosa ho fatto? L'ho smontato, l'ho aperto tutta la carcassa e l'ho rifatto l'avvolgimento io a mano, perché bobinatrice chiaramente non ne avevo, ma allora ero giovane e dunque mi dedicavo a fare certi lavori, però è riuscito tranquillamente, perché ho voluto fare una modifica a portarlo a 220, a farlo funzionare a 220. Siccome non l'ho fatto a mano la bobina e dunque ha preso molto spessore, prendendo molto spessore, ho interrotto e da 180 volt. Però i 180 volt, trattandosi di una cosa a valvole, va bene ugualmente, funziona ugualmente, non c'è problema, sono sufficienti 180 volt per poter far funzionare le valvole. Ecco com'è andata. È andata bene per almeno un anno e mezzo, non so di preciso, ma più o meno così. Poi si è bloccato. Allora mi sono stancato, l'ho messo da parte, anche perché intanto ne avevo altri, come sempre, e mi sono trasculato, l'ho messo da parte, insomma, non mi sono interessato, capito? Aspetta, anni 60 questa radio. Ed è anche in buonissime condizioni, eh. Adesso ho smontato tutti i pomelli e le sto dando prima una bella pulita, capito? Per poi metterla in operazione, dai. Non capisco quell'interruttore che c'è davanti che cosa sia. Scusa già, che cos'è quell'interruttore tra lo squelcio e il volume? Quello lo lasciavi acceso, lo mettevi in stand-by, capito? Era per metterlo in stand-by. Ah, buono, ok. E lì vediamo di togliere quell'interruttore e metterle un commutatore a chiusura, praticamente simile a quello col pomello che già si trovano quei pomelli lì. Va bene, no, sono rimasto un po' così, anche perché c'è lo smitter di quelli proprio dell'era che furono, ma molto molto bello, simpatico, eh? Ok, che sembra uno strumentino, va bene, anni 60, sì, anni 60 con la radio, perché io ho avuto il 25B e il 35B, questo invece è il Comstat 23 Mark 6 della Fayette, ed è bello perché c'ha tutte le scritte, lavandole sono venute veramente tutte pulite, ordinate, adesso poi vediamo cosa decide Gianni di fare. Va bene, avanti Gianni. Ciao. Ma Gianni io? Che sei comparato? No, beh, è una cosa che mi ha dato Giulio e adesso la facciamo, mettiamo in funzione. Accende ma non c'ha ricezione, il PTT ce l'ha ma non c'ha ricezione, quindi secondo me qualche valvola da sostituire, qualche cosettina da rivedere, però è in buonissime condizioni. Bello, anni 60, è molto molto rara questa radio, anche per collezionisti è rarissima, perché io ho sempre visto il 25B e il 35B, questo 23 Mark 6 della Comstat non me lo ricordo, con tutta la mia buona volontà, io ho iniziato nel 74, però questa non me la ricordo. Riprendi Gianni, fai girare. Sì, la devo dare a Gianni Capri, che deve dare la controllata, lui è molto più esperto. Io non vorrei poi dire che sono un tecnico, perché non lo sono, anche perché poi, sai, questa gente che ti ascolta. Io tecnicamente non sono preparato a fare queste cose, lo do a lui che si appenta. Riprendi Gianni. E poi Gianni tu hai vinto, sei specializzato. Ti piacciono molto, quindi già Gianni Cavalmiglia, magari sarà qualche fesseria. Claudio. E me giù. Sapevo che ti interessava anche, ma io avevo il 25.000, la settimana scorsa l'ho dato. L'ho dato ed è finito a Cagliari. Se sapevo che ti interessava quel tipo tiravo 25.000, quello puttonante, era grande, non c'era problema. Io non lo sapevo, Giuseppe, no, io 25.000 sono avanti. Tu immaginati che ho ancora la staffa io del 25.000, sai, quella staffa grande che te lo teneva un po' sollevato, no, che c'ha quattro bulloncini, quattro da una parte e quattro all'altra, otto so, perché è talmente grande la staffa, perché è tutto ferro, quindi anche la staffa è in alluminio pesante. Ce l'ho ancora dentro l'armadio, figurati tu. Non lo sapevo che avevi quella radio lì. Se no te l'avrei chiesta, tranquillo che te l'avrei chiesta. Sì, ce l'avevo, e ti lo sto dicendo, la settimana scorsa l'ho dato. Ed è finito a Cagliari, è finito. Infatti quello 23 che avevo, che appunto l'ho messo a parte, l'avevo tenuto esclusivamente in caso di necessità, mi può servire come pezzo di ricambio per il 25.000. Invece poi il 25.000 appunto me ne sono rifatto, perciò non mi interessava più nemmeno quello 23, perché simili, sono simili. Perché quel trasformatore, se uno lo chiude, lo mette su un apparecchio che funziona, stai tranquillo che riprendi tutto da capo, perché funzionava la 110 prima, funzionava, capito? E adesso è stato rifatto col trasformatore, ma se uno lo sa fare, togliendo quello e mettendolo su un 25D in maniera perfetta, collegato come collegato quello, eccetera, stai tranquillo che il 25D funziona da grande. No, già accende, non ronza, niente, abbastanza silenzioso. Ho attaccato l'antenna, l'ho fatto scaldare un pochino, il PTT c'è, però le valvole sono praticamente quasi spente, perciò sicuramente innanzitutto sarà un problema da rivedere sulle valvole, però Gianni ne ha uno, ha detto, simile a quello, quindi vediamo da lui, ne facciamo uno. Infatti l'ho già mandato la foto, molto molto bello, ha detto complimenti, una radio spettacolare, una radio che è difficilissima da trovare, lui che poi è collezionista, difficilissima da trovare, perché ti ripeto, io questa non me la ricordo, a Porto Torres era pieno di 25.000, di 35.000, di Constat, ce l'avevano tutti anche nelle Marche. Poi c'avevano i Tenco 46, capito? Però questa non me la ricordo, Giulio, è dirti proprio una balla, ed è veramente molto interessante, grazie veramente. Ok, Gianni, a te il cambio, ma anche Luca Maicomia c'è. Ehi, avanti Luca! No, Carigliera non sapevo, l'avrei dato a te quello lì, pazienza, ormai quello è fatto. Fare a piacere sulla Teversato, ma se sapevo che ti interessava proprio anche quel tipo, guarda, ti avrei dato volentieri anche quello di cuore, veramente, peccato, vabbè, se lo sento ti dico se me lo riprende quello lì, anche perché gli ho dato per una miseria, cioè non fammi un'offerta, ma faccio un'offerta a lui, questa è un'offerta stupida, non c'è questa gestione, perché tanto a me non mi piacciono questo genere di radio, per cui è per quello che gli ho dato. Ma ci picchiamo un sappello, no? Pensavo non ne avessi di questa categoria qua. Infatti l'ho messo sopra il DAC col microfono a tavolo, momentaneamente l'ho tutto pulito, le ho fatto le foto, l'ho mandate a Gianni. Va bene, ok. Sì, stamattina siamo usciti con Giacomo, con Luca, fare un po' di commissione, abbiamo buttato via quella televisione, poi siamo andati da fare la spesa, lì allo Spina Pedagnetta. Poi siamo andati da Globo, mi ha preso un paio di scarponcini belli, delle cocoveri molto belle, morbidissimi, infatti c'eravamo stasera che sono uscito, c'avevo un appuntamento da notaio, e poi niente, poi ci siamo rientrati a casa. adesso. Siamo andati manco a prenderci un caffè. Prendeva freddo, ma porca miseria, non ti invita manco a uscire che. No, ma stamattina c'era il sole, io quando sono uscito c'era il sole. E ma poi è piovuto però, poi si è messo a piovere. Ah, e allora io sono rientrato verso mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e venti, ed era bello sino a quell'ora lì, vicino a casa. Poi io ho pensato a fare anche la spesa, perché stavo prendendo le ultime cose per Natale, tovagliolini, tutta quella roba lì, perché poi non le trovi, vai all'ultimo non le trovi. E niente, adesso mi pare che solo il primo devo comprare, poi tutto il resto ce l'ho. Sì, io adesso, mi ha preso tutto in freezer, no vabbè, noi li usiamo parecchio i piatti di plastica, capito? Non voglio, siamo una mia moglie sola, metto due piatti di plastica, manca per fare pasta, allora uso i piatti normali, non ci sia carne per tagliare, ma c'è insalata, cosa così, roba leggera, capito? Va bene, va bene. Ehi, provo a comprare un vegetale intanto. Siamo quattro iatti a casa. Quattro. Due iatti più un cane. Avanti Giulio. Ok. Adesso domani, se mi viene bene, come devo salire a Sassa, io vado in falegnameria, perché mio corno delle chiavi, una chiave per piazzare lo stato al bagno, che la volta ero fatto male al piede, infatti sono ancora mezzo zucco. E dunque lo stato da bagno che era bucato, sono andato a comprarlo, questo quando sono andato a comprare lo stato da bagno ho messo male il piede e mi ho fatto danno a tutto il piede, non ho capito, al piede, infatti ancora, e questo risale già a roba di 25 giorni fa, forse avevo anche qualche piccola frattura, non lo so, ma tu sai che ancora un leggero dolorino, lo sento. E domani stanco a prendere queste chiavi e vedo di farmi una scappatina e comprare questo spinotto di modo che possa poi magari adattare a questo baracchino un microfono amplificato. Vediamo un po', dai. Il tempo, vediamo com'è intanto, speriamo che non piova. Avanti già. Ehi, io ci avevo roba di 4-5 giorni, la roba stessa, perché me l'ha mangiato talmente tanto che non lo faceva, ma quanto io la metterla nello stendino, era troppo bagnata, era zuppata, zuppa brutta. E l'ho ritirata da oggi, come ha fatto un po' di sole, me l'ha asciugata e niente, me l'ho voluta ritirare, perché sennò era quattro lì a Pisa, sui cosi. La fine che si frasificava, se non tirava a fare. Va bene. Va bene che siamo di freddo, sicché non è che possiamo pretendere che le giornate possano essere sempre belle, ma per ogni modo, se facesse anche qualche giornata in tanto di sole, saremo più contenti sicuramente. Avanti qua, sei impegnato? No, adesso vado nuovamente contro la mia moglie, devo togliere il ghiaccio, vai, riprendi già. Ehi, ehi, vai, fai un bravo infermiere. Tu pensa già che gli ho messo un po' di squessi anche, tutto lo stesso, nemmeno QRM, per cui intanto voi me la aprite tranquillamente lo squessi, ed è stata una modulazione bella, pulita, ma chiara, e vabbè, e i baracchini di allora vanno bene ancora, questo è tutto quei quarti, anche quello che ho dato stamattina era tutto quello di quarti, una quindicina di quarti, per tutti i canali, perché anche quello era 22 canali. Va bene, dipende già. Avanti, attenzione! Avanti, la chiamata sul Milano 10, doppio run da questa parte in compagnia di Giulio Rollaro e Claudio Sparviero, avanti, anche Luca Manicone. Non sento nessuno. Manco io non sento nessuno perché non ha parlato adesso. Attenzione l'amico, avanti. Ho entrato in galleria, mi è andato qualcuno di Cagliari, qualcuno di quella zona. Ho capito, va. Luca, cosa sei combinati? Franco, California, Bisese. Frank, ho mollato. Siamo rimasti soli, Giulio. Facciamo mollato tutti. va bene. Va bene. Stanno notato anche che la trasmissione di questo baracchino è leggermente più grande dei soliti veicolari o già. Mi sono reso conto che è un po' più grande anche lo Smitter. Sì, e se trovi anche il microflusso originale è anche un bel, rimane compresso, bella forte la radio. Se non dovessi mettere l'amplificato e trovi quello normale, è bella la radio di quello normale, perché io parlavo normale e dicevano se era amplificato. E ha un compressorino interno, io l'avevo aperto per vedere cosa c'era di particolare, c'è un compressorino interno. Lo so, era precompresso, infatti, già lo so, sì, già me lo ricordo, ma ce lo dovrei avere, lo sentirò. Ma ogni tanto non mi interessa più di tanto, ci metto un microfono preamplificato, ci metto le più 4 e va alla grande, sono sicuro che va alla grande, non ci sono dubbi. Oppure ci metto il Delta ecco, o Master Echo Plus, o come si chiama, che sono qualche annetto anche quello senza usarlo. Ma l'avevi messo a posto oggi? Ma lo metto a posto, non si era bloccato, non so che cosa, forse si era rotto lo spioncino, si era rotto, ma lo metto a posto, uno di questi giorni, tanto adesso in questi giorni mi sto annoiando e allora mi metto e me ne faccio queste cose, già li so fare io queste cose. E infatti se uno c'ha tempo pure per fare, anche io già mi raggio a fare qualcosa, ma mi manca la partenza. Io non c'ho molta pazienza, se mi può bere la prima o chi, se non mandare comincio a sclerare. Lo so, no, sai qual è il problema adesso già? Che io quando mi metto adesso a guardare i contatti eccetera, dopo un 10 minuti o quanto l'ora mi stanca e devo interrompere. E quello, il problema è quello. Infatti stamattina ho faticato un po', perché sai com'è? Non ho più gli occhi di tanti anni fa e allora a questo punto sai, guardando da vicino con gli occhiali è d'accordo tutto quello che vuoi, però mi stanca e allora devo interrompere. Perché non devi fissare mai sulla stessa cosa, ogni tanto devi togliere lo sguardo e guardare una cosa di un altro colore, perché se fissi sempre la stessa cosa ti stanca l'occhio. Sì, io non l'avevo detto l'oculista, anche quando stai al computer. Qua ogni tanto devi stare a guardare qualche altra cosa, per dire guardi una tenda, qualche cosa del genere che c'hai attorno. Lo so che bisogna fare così, però quando stai facendo i lavori devi guardare attentamente, anzi tante volte ci vuole anche, oltre agli occhiali, anche la lente di ingrandimento, secondo i contatti che devi guardare, per cui insomma. Con l'età si consumano anche gli occhi, ho già. Purtroppo è così, la vita umana è così. Hai visto che è morto Russo? Sì, stamattina l'ho sentito alle 8 meno un quarto, stavo ascoltando il giornale radio, stavo ascoltando, io stamattina mi sveglio molto presto, mi metto le cuffie e ascolto subito il giornale radio, poi passo alla televisione, sempre con le cuffie, e dunque ho sentito la notizia di quella. Era un grande uomo, e quello sì che era in gamba, a differenza di quell'altro poveretto, che qui nel cielo ci sia anche lui, però questo era un signorone, era oltre il giocatore, non era ai livelli dell'altro, però questo era un gran signore, veramente. L'altro giorno c'era Barbara D'Urso, la ex ragazza col figlio di Maradona, hanno detto che la gente non si deve permettere di parlare male di lui, perché guarda solo le cose che lui aveva una grossa debolezza, però aiutava il prossimo, dava offerte, aiutava i pubblici eccetera eccetera, era di gran cuore, però sbagliava da quella parte lì perché era debole di carattere. Io l'ho sempre detto, continuo a dirlo, come giocatore è stato il più forte del mondo, per me, nonostante che lui era nella squadra dove io non tifo, che quasi quasi la odio quella squadra lì, e cioè il Napoli, però lui per me è stato il miglior giocatore del mondo. Ma come? Come esempio lui ai giovani, tu devi capire che lo sport è seguito dai giovani. E dunque lui non ha dato un buon esempio ai giovani, perché ha fatto una vita da pezzente, nonostante i suoi miliardi, perché sicuramente nella sua carriera ha realizzato anche miliardi. Ma per me è la villa dove viveva, no? E praticamente c'aveva un bagno con la pozza settica giù perché non poteva salire le scale, non ce la faceva più a salire le scale, capito? Perché aveva l'altro giorno, l'altra notte, però il bagno ce l'aveva su, bel bagno, cosa ci ha dovuto mettere, un bagno con la pozza settica lì, tutta la casa vuota, sempre un marrone come viveva. Ma guarda che non è nemmeno un mese fa, l'ho visto in televisione, allora ha fatto una festa, lui ha fatto una festa a casa sua, tu lo vedevi, presente c'era un barbone di quelli tutti ubriachi, ma ubriachi fradici che non reggono nemmeno in piedi. Beh, quell'immagine hanno fatto vedere di lui, e che per dirti no. Vabbè, lui era padronissimo di vivere la vita che gli piaceva, questo non ci sono dubbi. Però visto e considerato che era un personaggio pubblico, un personaggio di livello mondiale, conosciuto da tutto il mondo, non si doveva comportare così. Cioè, o perlomeno se vuoi devi fare queste cretinate, falle senza farti notare, senza farti vedere. Perché è stato per me un cattivo esempio per i giovani che si approcciano allo sport, cioè al calcio. No, già, io la penso in questo modo. Poi ognuno la pensi come crede. Io l'ho visto al suo compleanno cantando col figlio, che ha riconosciuto dopo 20 anni, e stava cantando insieme al figlio. No, l'ha conosciuto dopo quasi 30 anni, per cui vedi bene, solo da quello si fa capire che personaggio è. Certo, non ha fatto altro che sparpagliare figli per il mondo, ne ha fatto poco di bastardi e ne ha riconosciuto solo 5, e di questi 5 uno tra l'altro non è il suo, e questo infatti lui l'aveva saputo da poco. Ultimamente, prima che gli successe quello che gli è successo, lo aveva capito, l'aveva scoperto che non era il suo. Però non si fa così, già non si fa assolutamente, dai. Io posso capire, faccio le avventure che vuoi, tutto quello che vuoi, però lui, e poi se ne andava a Cuba, se ne andava da quell'altro drogato del corso, come si chiama, il presidente cubano, e si drogavano insieme, per carità. C'è la macchetta tanto nel braccio, lo sai, la riviso suo di quel presidente cubano, ce l'aveva fatto nel braccio con il tatuaggio, e diciamo che Vizzetti ce li aveva, però come giocatore, era una saetta, quando prendeva la palla lui non scartava nessuno, lui scartava tutti, passava dritto e tirava in porta, boh. È come se avesse il campo libero. Sono già detto, come giocatore era un grandissimo giocatore, il migliore in assoluto di tutti i tempi, per conto mio, anche meglio di Pelé, solo che Pelé è stato un signore come uomo, oltre che un grandissimo giocatore, anche un signore come uomo, invece lui solo grande giocatore, ma poi anche scorretto nella sua vita stessa, personale, perciò no, guarda. Devo dire anche che sono i napoletani che l'hanno montato la testa questo qui, lo chiamano addirittura Maradona, la mano di Dio. Ma come si fa a paragonare la mano di Dio alla mano di Maradona? Solo perché Maradona nel campionato del mondo che aveva vinto l'Argentina aveva fatto all'Inghilterra un gol con la mano, cioè di pugno, tanti che prendono di testa, ha fatto un gol con la mano, dunque annullabile. Anche se l'arbitro non se ne è accorto e l'ha convalidato il gol. Cazzita, e loro l'hanno chiamato la mano di Dio, ma non vi vergognate a fare una affermazione del genere? Io mi sarei vergognato, guarda. Sì, lo portavo a Napoli a farla di mano, infatti le donne mi stavano appresso perché era venerato tutto, come se fosse un santo veniva venerato a Napoli. Tutte le feste che gli faceva, tutte le cose, gli avevano fatto la canzone, e viva Maradona, ecco se ci piace la donna, e gli hanno fatto quello. insomma, un po' tutti non venivano la notte, capito? E le donne normali vedevano che era una persona alta, per forza che li stavano appresso. Lo so, loro lo stanno venerando troppo, anzi lo hanno venerato troppo. E non parlare poi di quell'altra cretinata che hanno voluto fare, che hanno scalzato dallo stadio di Napoli, che si chiamava Stadio San Paolo, hanno scalzato San Paolo per chiamarlo Stadio Maradona. Ma aiuta, ma allora sono impazziti, per me questi napoletani sono scemi da guerra proprio. Allora io napoletano certe cose li paragono agli americani perché fanno tutte le cose in grande, fuochi d'artificio e questo. A Natale, Capodanno si sa che a Napoli ci sono il maggior numero di feriti per dire perché buttano bombe, non pettati, bombe. Carità, poi non parliamo dei media, i media poi non ne parliamo, sono già 15 giorni quasi che stanno facendo trasmissione sempre su questa persona qua, su questo personaggio, dice, ma non è possibile, ma non ne hanno altre trasmissioni da fare in televisione. E che diavolo, sì d'accordo, ricordalo un giorno, due giorni, ma adesso sono già quasi 15 giorni che lo stanno sempre venerando sempre di più. Tutte le televisioni, finisce una e inizia l'altra e parlano sempre delle di lui, ma non è possibile già, dai, è pazzesco. È stato un idolo per Napoli, quello è stato un idolo, lo venerano proprio, capito? Hanno sempre venerato, adesso stanno uscendo figli nuovi, nel programma di Barbaraduso. È uscito un altro figlio nuovo che dice di uno che dice di essere il figlio e niente, quello che ha riconosciuto Diego Armando Maradona 2, quello lì ha detto che non si doveva porre così, buttare e dire cazzo che rispetta anche l'eredità, non so che cosa, perché sì che dice che il figlio può anche accettarlo, se è vero, vedo che è vero, lo accettate come fratello, però buttarsi così e dire subito le cose sulle, questa cosa mi dà fastidio adesso. È verità, no, non è possibile già. Dice, io capisco che ha fatto gioire i napoletani, ed è per quello che lo stanno venerando. Però adesso allora dovremmo intitolare subito qualche stadio anche a Paolo Rossi, perché lui ha fatto gioire Napoli, tutta la città di Napoli, mentre invece Paolo Rossi ha fatto gioire tutta l'Italia, perché Paolo Rossi era campione del mondo, pallone d'oro e capocannoniere in quell'anno, quando l'Italia ha vinto campionati del mondo, nel 1982. Proprio perché Rossi ha fatto tutti quei gol. Allora dobbiamo anche intitolare un qualcosa di importante anche a Paolo Rossi, merita anche lui, no? Visto considerato che l'hanno fatto per Maradona. No, Paolo Rossi era solo un bravo giocatore, invece Maradona veniva proprio venerato. Purtroppo a Napoli sono fatti così, fanno festa per ogni cosa, addirittura non vedo un nuovo culturo fare festa per una persona che è morta. Comunque sa sia, io non mi sento di giudicarlo perché non sono io che devo farlo, però venerarlo così è troppo, dai. Sembrava quasi una festa, non un ricordo di una persona che era morta. Infatti già, io lo ripeto, tanto del rispetto per il defunto, perché giustamente è giusto che sia così, bisogna rispettarlo, ci mancherebbe altro. Anche la persona ha rispetto, poi se lui ha condotto la vita che ha condotto, quindi ho perduto la parizione. Però io sto parlando così, per i media, soprattutto per i media, che ne hanno fatto una venerazione, un venere ne hanno fatto di quest'uomo, che poi secondo me non meritava tanto il cappello perché era grandissimo giocatore, però non meritava di essere venerato così, perlomeno come si è comportato, è tutto lì poi a fare loro, i napoletani già lo sappiamo, sono esagerati in tutto e per tutto, anche perché a me non mi sono nemmeno molto simpatici, a dire la verità. Eccomi. Avanti, bravo. Ehi, ehi, scusate, io non sempre non stare, vai vieni, vai vieni. Oh, ehi, ci ho fatto un po' di broccoli trifolati al forno, sto facendo questa notte. Un po' di zucchine, vuole mangiare. Non problema. Ehi, Maradona, no, ma ragione, oh, Gianni, cioè se Maradona è stato il miglior giocatore al mondo, così possiamo dire che della sua carriera è stato il miglior giocatore, non al mondo, ma insomma a livello europeo, quindi diamole anche lui un titolo, no? Perché sicuramente glielo da, non lo so, però. Ma Giulio era il dio di Napoli, capito? A chi arriva dall'Argentina, la Cipria, hai capito? Ha incipriato tutto Napoli, infatti è incipriato di Napoli, è incipriato di Giedo, hai visto la fine che ha fatto, perché sono d'accordo con te. Grandissimo grandissimo, il migliore giocatore al mondo, c'è Pelé, ma si è rovinato la vita e l'ha rovinata anche agli altri. Infatti, lei non si è sentito di mettere portante comunque, sempre che lo sai dove la vai a passare. Beh, in effetti è così, è inutile. Non si può venerare una persona che per me è stato di cattivo esempio, soprattutto per i giovani. Tu sai benissimo che il calcio è la cassa di risonanza per l'approccio dello sport, allo sport dei giovani, no? E lui certamente non può dire di essere stato un buon esempio per i giovani, assolutamente no. Sì, magari tu mi dirai, ma lo ricordano come calciatore, d'accordo. Però già lo sai che poi viene rischiata anche la personalità dell'uomo, per cui non lo so se la persona abbia fatto bene. Per me ha fatto malissimo, era uno zumbi, per me era diventato uno zumbi, tanto di rispetto anche come persona, perché lui era padronissimo di vivere come piaceva a lui, però non lo dobbiamo venerare, io perlomeno non lo voglio venerare come hanno fatto a Napoli o Ocla, assolutamente no. Qualcuno stava cercando di mettere la portata, ma lì c'è Marco però, Ehi, coraggioso è Marco, vabbè, tornando col baracchino, ma anche col baracchino già mi difendo, non c'è problema. Avanti, Gianni. Io lo posso fare la faccia bu ogni tanto e basta, si sentiva, ma tu lo passava, tranquillo. Non rompo le palle a nessuno. Lascialo va, non c'è un problema. Va bene, allora, tornando, facendo il corso, che è elettronica o qua, è un punto questo. Ha una ricezione straordinaria questo baracchino, veramente bella, chiara, pulita, pulita, bella. Va bene, adesso mi stanco e poi lo rimetto a parte e lo riprendo quando me ne ricordo di nuovo. Vai già. Claudio, Pedivella. Cazzo, li scendi. Pedivai. Oh, questa Lucrezia. Attenta, Giannini. Grazie a Buggia. Ciao Nino, cosa mi dando? Uia. Kappa. E vabbè, là. Comunque, ho venuto il coso, l'ho monopatto, omologato, il 48 modificato. Oh, cla, ti animali, io farei una media o tu sul casino. Faccio fatica perché devo sollevare il volume quando parla Giulio, quando parla lui mi offende il giorno, c'è un po' di rimbombo, sicuramente sta parlando da lontano, e poi ci porta a prezzo questo elicottero. Oh, venduto qua a Sassari? No, fuori, vicino a lui, vicino a Udia, mi pare che sia, uno di lui. Ah, va bene, già va bene, almeno ti ho detto come sei piedi, tanto già. c'hai quella là in macchina che è favolosa, a casa chi su, non si può trattare. Guarda, io l'altro giorno, proprio mentre parlavate, ho preso l'attacco dalla 48 e tanto c'ha lo stesso connettore dell'Elbex, l'ho messo sopra l'Elbex, c'ha i filtrini per non graffiare il radio uno come l'altro, sono uno con l'altra, è lo stesso attacco microfonico, quindi ho detto prendo solo la radio. L'ho attaccata già, allora praticamente sentivo voi nel 10 e poi tutti quelli del 23, ha detto ma vai in armadio, io stacco e l'ho rimesso dentro l'armadio, allucinante. Sì, è l'unico difetto che c'ha il 48, che prende splatter, perché usato in macchina già va bene, ma una macchina nuova non mi piaceva mettere questo quanto camuffato. Non mi sembrava un po' rotto. Beh, intanto l'avevo stato fatto, ma gli hai dato ordinato, in ordine, con tutte le sue cose. Intanto gli hai dato anche la strappa, gli hai dato tutto. Almeno sei tranquillo, nessuno ti può dire niente perché è nuova, nuova con la radio, quindi già va bene. Ottimo per la truppa, e come ho fatto io. Inoltre stai lì a cincischiare, io ne ho venduto 5, fate il conto. Marachini neanche uno, non ne vendo neanche uno, ma DHF di radio ne ho venduto 5. Intanto è utile stare a Verratante, mi sono fatto la linea della Kevod e poi quella VU e basta. E poi il resto, la base già l'hai vista Giulio, come sono organizzato. Dove sono adesso, la base che hai fatto tu, quella è tutta piena di baracchini. Tutti i baracchini, vintage, non vintage, tutto pieno di baracchini. Riprendi giù. Sì, l'ho visto, hai fatto una bella esposizione. E va bene così, hai separato l'HF dalla 26, dai. Praticamente di HF ti è rimasto il 430, il 440 e il 140, così è. 440 l'ho fatto fuori, 440 non ce l'ho più, c'ho la linea del, quella che vedi, è tutta la linea completa del 430 e più il 140, basta. Ah, ok, ho capito, sì. Oggi mi hanno mandato un messaggio, se mi interessava un 440, e cosa me ne faccio? Non mi interessa, dai, ce l'ho, per cui mi tengo quello che ho e basta. Intanto già funziona e poi al limite posso anche farlo riparare. Sì, proprio oggi mi hanno mandato un messaggio, non dico chi è, però mi hanno mandato un messaggio.